viviamo negli lieti carici che la bellezza infiora, e là fuggevol, fuggevol ora s'inebria voluta. Liviamne dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio core onnipotente va. Liviamo amore, amore carici, più caldi baci avrà. di tremante vissi d'ignoto amor di quell'amor che palpito dell'universo dell'universo intero misterioso misterioso il tema croce croce delizia croce delizia delizia al cor oh se c'è verso ditemi sono amistade offro amarne non so ne so Oh, Gioia e gioia.